tutti dal produttore deve far piacere. E infatti c'era anche noi, anche a Gianluca problemi non ce n'erano, dice, solo che lui non lo sa per domenica. Ora mi domani chiamo a aspetta Sandro, cazzo, mentre in testa Sandro, sicuramente ce l'avrà lui il numero di telefono, qui se l'avverte, dai, così nel caso viene anche lui. E a Giampaolo? E Giampaolo Curicino, ce l'ho portato qualcuno, perché no? Giampaolo sai benissimo, non ce la fa, ha bisogno di aiuto, dunque ci vorrebbe qualcuno che lo portasse, perché no? Vediamo un po'. Il numero di telefono di Giampaolo ce l'ho, già. Domani chiamo anche a lui e vedo un po' se gli viene bene, se qualcuno l'accompagna al quadrato, perché no? Va più che bene, anzi, meglio ancora. Vabbè, Gianluca o Sandro, se salgo la Sassari non penso che ci siano problemi. E infatti faccio così, dai, allora ci penso io anche per questo, dai. Chiamo a Sandro, gli dico di avvertire sia Gianluca che a Giampaolo e poi vedranno loro di organizzarsi, dai, per domenica. Dove dice che viene anche il Luncino, prima era un po' così, vediamo. Ha detto no, o viene o non viene, dice che già viene, alle 10:30. E non c'è problema. Perfetto, va benissimo. Dunque, di buono cosa c'hai per caricabatterie? Caricabatterie, io ho già mangiato la pizza. Cosa fanno? Del riso e dei pomodorini. Ed è buono, mi piace molto la pescatola, il riso e con i funghi porcini. E già vabbè, dai, siamo a dieta, poi sono eliminato carne e pesce già, vedi tu, dunque sono contento a mangiare queste cose. Ma io già va bene lo stesso, sempre carne, boh. Sono 5 mesi, tra un po' faccio il sesto mese, 6 mesi senza mangiare né carne né pesce. Le dico, mi sento veramente, ma veramente bene. Hai eliminato proprio, no, Antonello? Sbagli. Una volta ogni tanto va bene mangiare. No, già, ti giuro, guarda, non credo che sia una cosa psicologica. Comunque ero da tempo che avevo sempre questi problemi. Se mal di stomaco gonfio, mal di testa. Poi ho letto, fortunatamente questo libro che ho trovato in questo negozio di alimenti biologici, e ti spiega un sacco di cose, porca miseria, di un medico, Gerson, e ti spiega perché, ma perché non mangiarne, cosa devi mangiare, tante belle cose, ce n'è da leggere, io ho quasi finito, poi una dieta sua particolare, se proprio vuoi depurarti il tuo corpo al 100%, carne e pesce eliminarla, cioè non deve proprio esistere nella tua alimentazione, direttamente già quando uno nasce. Magari è una sua teoria questa qua, perché poi gli altri medici dicono, per dire, le uova mangiate ogni 15 giorni, la carne per dire due volte alla settimana, il pesce, andare col pesce, eccetera, eccetera. E le altre diete parlano chiaro, ci mettono tutto in mezzo, carne, pesce e tutto. Poi bisogna vedere se la sua teoria è giusta o quella degli altri, chi lo sa. Buonasera, dai, passi di nuovo, di Giovanni di Ottieri, prima era di Usi, adesso di Ottieri. Ciao Simone, ciao, buonasera. Oh, ciao Simone, buonasera e ben sentito, in compagnia mia di Gianni Doppio. Ciao Luca. Positivo, dai, Simone qua, combinate qua, siamo al mercato, dai. E a ciao Giova, Barracuda, oggi non ne vedi formaggio e salsicce? Ciao Simone, non sono Giovanni. Ah scusami Simone, buonasera, l'ho sentito anche a te, mi chiedo guardo. Ciao Rimando. Intanto il flash di ieri a questo qua. Che sta fa paura amore? Rubare il vino, fai davvero un cagliarito. Scalò, vediamo, è il giù. Ma cosa stai usando, Luca? tanto. L'alluminio fino, capito, magari non regge il vento. fortunatamente la mia ho visto che è già retto abbastanza, sembra così bene o male buone come tipologia di antenna, abbastanza delicata secondo il tempo che tira. Mi sa che conviene più averle come il tipo che ho io, non vorrei dire cazzate, ma dipende sempre dal punto in cui si trova anche. Che io sono goccia a mare, capito? Beh, il vento mi tira un bel... Infatti, come zona che ce l'ho presente, tu bene o male dovresti affacciare Platamona, giusto già, nel punto in cui ti trovi. Io vado Platamona, Porto Torres, vedo, e più là pure... Ma bella venuta là. E dunque tu sei molto più vicino al mare confronto a me, sì? Un bel po'. Dal punto in cui ti trovi, sì sì, sei molto più vicino. Dunque sicuramente ha preso molto più vento. Oh, bianco un attimo già, riprendi, riprendi il volo e torno subito. Sì, a grosso riprendo. L'ho impegnato. E a te vai così. E vabbè, magari qua c'è un bel tempo, la base appena, se riesco a togliere fuori quel pezzettino che è rimasto dentro, riprendo il radiale, gli faccio un segno col pennarello, scendo giù, gli faccio buco col trappo e glielo rivendo. Ascolta, se no se c'è una mano a fine settimana, una di mattina una scappata ce la faccio, ma abbastanza problematico, un bel po' di tiranti devi togliere. Non devo togliere niente, io l'abbasso l'antenna con i tiranti, una volta che tu l'abbassi ci arrivi tranquillo. Poi una volta che è finito la rialzi e fatto il gioco, i tiranti vanno di nuovo in tiro. Ah, è perfetto, allora dai, già è abbastanza. In due conviene sempre da solo, non è che sia il massimo, se mi hai spiegato che non è tanto lineare come effetto, dunque, ma si può fare benissimo, dove lo prendi lì da Bricomen? Sì, ma Antonio lo faccio con più calma quando c'è bel tempo, tanto non dà nessun problema, guarda, non ci sono manco stazionari, è uno e uno di stazionari, tranquillissimo. No, guarda, adesso in questo momento io sto scendo con 4 watt, sì, modulati 4 watt col 68, e c'è l'indicatore 1, da lì non si muove, infatti da 1 in poi, quando non piove sempre ferma 1, poi se piove 1 e 1, da una cosa e l'altra, no, fortunatamente come stazionare vedo che già è sempre funzionato bene, non so, forse è perché avete rispettato bene anche gli ispettori, il cavo, sono... 22 metri, multipli di 1, e gli ispettori sono da 90 centimetri, tutti quelli che ho a casa, che vanno all'apparato, al questo watt meter e così via, lineare, sono tutti gli ispettori da 90. Sicuramente ho rispettato queste misure, diciamo, mi dà questo risultato. Poi un minimo di stazionare, bene o male, ci dovrebbero essere, dai. Beh, quello è normale che ci siano. E anche io quando sono staccato c'è 1 e 1. Ah, 1 e 1, anch'io, quando sei staccato 1 e 1, quando sei collegato 1 e 2, tra una cosa e l'altra. Esatto. E la norma, a me fa 1 e 1 collegato, poi se piove sono a 1 e 2, tra una cosa e l'altra, sì. Vabbè. Oggi è caduto la donna dalle scale dove lavoro, poveraccia, non riuscita più a muoversi. A un cliente così, facendo spesa? E allora, poi questo qui metteva sempre la macchina nello spiazzo, oggi gli è venuto in mente di metterla giù nei garage, stava scendendo dalle scale, sempre nello spiazzo, perché io la vedo di sera quando viene. Moneta, dunque sei andata a soccorrerla, ne ha perso spesa, scarpe, quanto aveva? In ambulanza, no, la spesa ce l'avevano le figlie, era con le figlie, con tutte le figlie, ma l'hanno portata via in ambulanza. Ma si è fatto un bel po' male. Se non riusciva a muovere nel braccio della gamba. Io ho messo veramente qualche brutta contusione, la persona anziana era. No, 65 anni avrà, 63-65 anni. Dio mio, ma bene o male che tu la vedi ogni giorno, già una persona abbastanza attiva, dai, non di quelle, sai, a volte anche 65 anni sono già lente, piene di acciacchi. Anto, Antonio, una persona che è stata malata, però sì che anche un po' di debolezza l'ha fatta cadere. Mancava, poi stavo tornando a casa, cazzo, fra poco mi sbatto con una macchina. No, cioè mia moglie mi sta sillando facendomi vedere, siccome mia figlia ha un libro del catechismo, ci sono delle persone disegnate, ma vedi le immagini, dai, di questa fila di persone, poi c'è un piccolo cespuglio dove questi tre ragazzi si stanno bucando e mi sta sillando con questa storia. Sai che una volta quella che abita di fronte è tornata di notte e c'è nel mio portone c'è la porticina che va dal posto macchina, e questi macchina arriva dentro il portone. E ha aperto quella porticina al buio, poi si è trovato questo qui facendosi, con i pantaloni mezzo abbassati e facendosi. Ho detto che si è preso uno spavento. Ma io sinceramente prima ne vedevo molto più spesso le persone così, adesso sembra così, hanno diminuito o sicuramente hanno cambiato zona. Erano cosignati a Sassari, guarda, giù in ogni angolo c'erano uno o due che si schizzavano e poi partivano in moto, veramente una cosa impressionante, guarda. Sì, guarda, fosse la noce. Io fosse la noce, sai quante verdusi ho fatto? Che zona è già? Scale Umberto, quella scalinata che c'è vicino al Moderno. Ah, ho capito, sì. Sì. E sicuramente sarà ancora abbastanza frequentato di come zona. Penso di sì, anche le scalinate quelle che ci sono più su, perché ci sono due scalinate, una prima vicino al Moderno e una più su anche. Tutte e due erano frequentate perlomeno da Tosici, adesso non sto più praticando, ma c'erano dei periodi che ci chiamava uno dopo l'altro, quando c'era roba sporca o mischiata, coso, ci chiamavano i due secondi, cazzo, andavamo verdose qua, verdose là, ma capitava una settimana che facevi solo verdure. E in quel caso come ti devi comportare? Facevi subito l'eliminazione lì, sul posto, oppure direttamente in ospedale? No, negativo, noi non possiamo fare, a meno che ci fosse un mio collega che è dottore anche, e allora quello lo può fare. Però non possiamo somministrare farmaci, quindi Narcan devo farlo lì a pronto soccorso. Devo fare la protesta in corso, tutto quello che puoi fare, tu che sei entrato in arresto, con lo massaggio e cosa, ma ti dico non puoi fare. Ah, così, devi portare in ospedale, se è proprio veramente grave, non avete la facoltà di cercare di rianimarlo, ecco. Sì, rianimarlo lo rianimi, non puoi rianimare col massaggio, il massaggio cardiaco, che a volte entrano in arresto, capito? Però il farmaco glielo può somministrare solo e esclusivamente un dottore. Se c'è il nostro collega che è dottore e lavora in ospedale, tra l'altro, un collega che è da ragazzino da noi a Ciso e poi si è laureato, è entrato a lavorare in ospedale tutto quanto. Quindi lui, se c'è la sua valigetta col farmaco glielo può fare tranquillamente, ma devi essere dottore. Ci abbiamo anche infermieri professionali, ma non che lavorare in ospedale, cosa? Buonasera dalla Città di Ferro. Ciao Sa, Ciao Sa, buonasera, ben sentito. Capo, dai. Ciao Gianni, ciao Antonello, Silandia. Buonasera circolari, dai. Niente, stavo spazzolando tutto quanto, stavo controllando un attimino la situazione, questo mezzo mi deve aver sbarottato l'antenna. Se mi dici, non lo so, adesso Gianni o Antonello, se non parte qualcosa. Parli bene, anche a me mi ha buttato il radiale. Mica, no. Sono salite le stazionarie, non riesco a capire perché, vabbè, ma non più di tanto, capito, questi due giorni me l'ha sballottata di brutto. No, guarda, a parte mia 95 sa, la radio è sempre la stessa, bella pimpante, senza nessun problema. Gianluca mi ha piegato un po' il tubo. Piegato il tubo? Sì, addirittura. Scappa, mi è sembrato così dal furgone, guardando, infatti devo guardare l'antenna a vedere, e ce n'è una che era un po' piegata. Allora, quando è avanti ieri col vento, come ho detto, io l'ho visto adesso piegato, ho detto ma stanotte ci siamo. Si è attirato, poi erano raffiche furti, eh. Sì, no, si è fatto sentire bene. Antonello, le prendi? E ti volevo dire che il microfono stai usando perché sta leggermente fischiando e rimane di sottofondo un po' barattolosa la modulazione. Ehi, cappa, lo so, no, perché questo... Perché siccome questo apparato c'è un buon ascolto, no? E allora, insomma, lo dovrei eliminare perché è fastidioso. Come metti il mic gain, diciamo che fa innesco, tutto lì, quindi... Vabbè, adesso ho passato il mic gain, vediamo un po'. Adesso va bene. Ascolta, Sam, ti volevo chiedere una cosa cortesia. Se ti viene bene rintracciare a Giampaolo Silvestro e a Gianluca per domenica alle 10:30 lì in Piazza dei Segni per riunirci per quella questione che ti ho spiegato al telefono. Se mi puoi fare questa cortesia e vedi un po' cosa ti dicono, se hanno la possibilità di avvicinarsi. Non lo so, adesso vediamo un attimino, se ritraccio a Gianluca, se non è che sta ai fini di lavoro o quant'altro, riguardo Giampaolo, non lo so, vediamo un po', se lo posso accennare, vediamo un attimino. È perfetto, fai questa cortesia, dai, che anche loro devono essere presenti se possibile, ecco. Avanti, doppios. Eia, scusatemi, la mia signora ha chiamato, dai, è pronto a carica batterie. Ci sentiamo dopo, ok? Buon proseguimento e appetito. Ehi, ciao Antonio, buona carica, ci sentiamo dopo. Avanti, Gianluca, se ci senti. Luca, non risponde, riprendi tu. Sa. Ehi, ok, dai. Va bene, ciao Antonello, ce la sentiamo alle prossime, dai. Va bene, dai, ok, vabbè, è tempo suo, ha messo abbassamento di temperatura. Ma non te se lo potevo lasciare in pace. Ehi, già lo so, purtroppo sono esposto al vento già, capito? Sono esposto al vento. E non ce l'ho un'altra, ragazzi, l'ho tenuta bassa, per carità, meno male, perché avevo intenzione di tirarla su, però ho detto, ma che cavolo me lo fa fare, e lo so, esposti al mare così, poi zona libera così, i venti li prende tutti, te la sbarrotta, ma l'ho vista a mezzo stilo, l'ho vista veramente piegata, Già non è cade. Dai, ciao Alessio, buonasera. Ehi, mi, Ale, se cade, peggio per me. Non è sammusciato l'altro giorno, figurati. Però già aperto il palo. No, perché bassa, non per alta. C'è una gente che va piazzata sotto con il motore per aria. 4 kg e mezzo, grazie. Che ci sia un buon palo, diciamo, dai, poi un bella graffamento, no? E quanto a quello già è bello ancorato. figurati che io nella base del tubo gli ho messo tre di quelle staffe con di questa sella espansione da 14 e niente, infatti quando ho messo il palo mi sono messo sopra a dondolare, ho detto va, se tieni a me tieni tutto. Io non già si pensate già va bene. No, la mia infatti la vedete. L'altezza invece fuori un metro sessanta. Quindi. E poi ci sono tutti tiranti agganciati. Poi ci sono abbiamo 27 pelle, che lunga 6,50 m. E poi quella di ultima avevo fatto che pedala un mezzo chilo, anche da leggere. Il motore che pedala più di ultima, che è il motore della parabola, della transistor, ne capito? E oggi la frecce, parlo di acqua, via con voglia. E da peccato sotto, amici, c'è una caffetta all'altra, sono distanti 20 cm, non di più. E lanciato in pratica alla fatta della parabola. Quindi, vedo che già la frecce, se esce dalla parabola, poi gli lascio neanche l'antenna. Sei capola, vabbè che poi la tua lì non è poi così alta, dai, ti ho visto, non è così alta, incomincia a preoccupare il palo quando incomincia a essere dopo i 4 metri, dopo i 4 metri il palo o devi partire con un buon palo, almeno il piede da 50 e poi 50, 40 per renderlo diciamo bello consistente, e vabbè, comunque. Lasciamolo fare, Gianni. Ma io dico la verità, la mia è 5 metri, però gli ho lasciato un po' di anima all'interno, era 8 metri il palo, ho lasciato l'anima interna e l'ho rinforzato. Vabbè, se è rinforzato è meglio ancora, E meglio ancora, diciamo che non l'hai portato tra uno stile e l'altro, non l'hai portato al limite per dire, ma quando rilascio 50 cm di da uno stile all'altro sovrapposto va più che bene, capito? Ma no, considera che io di palo c'ho un palo da... cos'è quel palo? Un palo telescopico e un... allora, il primo palo è da 50, da 50 poi c'è lo stilo da 40, che l'antenna è proprio incastrata dentro al 40, quindi cosa saranno? Un 3 metri saranno, perché poi c'è la sovrapposizione e ho 3 metri di palo, all'incirca. Tu cosa hai messo? Staffe murate, sa? Come? Ho detto cosa hai messo? Le staffe murate? No, ho usato quelle staffe col tassello, capito? Quel tassello a espansione, sono il foro è da 14, e l'ho fatto al buco, ho buttato dentro, vitante proprio a morte, e ne ho messo due, e sono distanti un 30 centimetri. Anche io ho usato quelle, però il foro gliel'ho fatto da 13, le ho forzate a martello, le ho messe anche silicone di modo che non si muovesse loro nel muro, qui ho avvitato e praticamente il silicone fa la guarnizione, sono entrate a forza. Ah sì, lo so. No vabbè, il guaio mio è che dove le ho fissate io ci sono quei mattoni, ce l'hai presente quei mattoni rossi, quelli bucati. Sono bucati quei mattoni lì, però vabbè che gliel'ho infilato lì proprio dove c'è il cemento, tra un mattone e l'altro al centro, gliel'ho buttati lì dentro, capito? Ma ho visto che già tengono. No, io l'ho messa sulla gabina dell'ascensore, e ne ho messo tre di tassilli. Vabbè, è già tutto un altro appoggio, tutto un altro ancoraggio. Va bene, dai, signori, scusate l'intromissione breve, ma mi stanno accennando che è pronto per la carica. Va bene, ciao Gianni, buona carica, se non l'hai fatta ce la risentiamo alle prossime. Ciao Alessio, a te il mic. Via, ciao, sa, ci sentiamo. Buon colore, buon carica, alle prossime. Secondo me vogliono sapere bene ancora, ma insomma è cambiato un po' tutto adesso. C'è sempre questo recente il vento forte adesso, la piattaforma, e quindi prima o meno ti potevi salvare perché faceva l'Africa, che ti chiamano una cosa ne fatta come oggi e ieri. Adesso invece bisogna cambiare tutto, rinforzare molto di più, in modo che anche se fa vento oltre 120 non si muova nulla. Se si spacca, mi si spacca ancora della bianco, il proprio non esce ne parlo giù. Se si ne parlo, se ne scende parlo in fala, non cazzo, insomma. Che si fa l'antenna, non attacca che giù. Ah, si spezza, è già leggera. La mantova non è questo che inverso, è troppo grossa, ragazzi, troppo grossa. Infatti non l'ho messa per quello. Ho messo una cosa leggera per dormire tranquillo, voglio dormire bene la notte, non dormire spaventato come facevo prima, le volte quasi a vento. Dormivo spaventato, non si caricava laggiù, poi c'era capo con una si lava, quell'antenna è troppo grossa, è troppo lunga, pericolosa, antiestetica, non so cosa partito, ma non so cosa si per l'apparatura. Chiavi bassa. L'ho messa, boh. Non devo chiedere permesso a nessuno, sono padrone come gli altri, quindi da tutti uno. Sì, vabbè, a me già mi va bene questa di antenna. Andava bene anche la gran polizia per questo, solo che la gran polizia dopo un po' di tempo ti si spacca lo stile a metà. Quello non lo vecchio, invece quello non lo nuovo, appena piazzato durato due mesi, al centro storico. Sto bugiata era. Allora non fa più che fare una gran play. Sotto la rampa poi ti si poteva fare un telescopico lungo per dire sto mentre ci mettevi la rampa in solariale e si è andata per lo stesso. E invece, quasi un bel ventoso, ben cui il maestro in pieno qua io. Qui a casa di mamma la gran play, quella della Lem con i radiali 275, vetrolesi, eh? Quella lì mi è durata quasi 10 anni, poi l'ho venduta, non l'ho buttata, l'ho venduta a Giovasso per la ragazza che era di San Giovanni, e era quella per fare la ragazza, tutta la smonti lì e te la piazza, perché era successo un casino nel palazzo e non volevano più a parlare, col baracchino eccetera eccetera. Quindi siamo saliti, l'abbiamo smontata e l'ho venduta a Giovasso. Come mi sei sparito l'antenna che c'era in via Umberto, c'è in assù il capo. E l'antenna che sono vicini alla pagina di Sant'Enna, quella su Pandemme. Ma quella che c'è per Umberto, che è tutta fuori? Sì, quella che è applicata sopra. Manca, non c'è più, l'antenna che ho solo portato via tutto intero, non riusciamo a buttare a pezzi. L'ho troccata al vento. In terra appoggiata, la toccata al vento. Poi è appoggiata in un'altra gabbiuglia. Qui sopra qui cosa è appoggiata, con gli affari in cemento. C'era un po' di rami di lì, c'era lo stivo insieme alla... lo stivo da quella della base, era lanciato. E il palo. E è entrato qualcuno, era andato, se l'ha portata via. E la fatta via senz'altro, oppure l'unica cosa c'è ma col capo del 58 che sale sopra. Che cosa te ne fai per 30 anni? Mica vado a pigliarmi anche del vecchio, non sai più niente. Ma sapete, se tu metti l'articolo per dire all'occasione, cerco un termine con l'articolo vecchio, sai quanta gente ti telefona per poter staccare la sua palpetta. Figurati, c'è quella di Antonio il bassista, che è ancora lì quella moto, la piazzata, c'è l'altro anche la specie di salvata, vediamo come si chiamava, la Skylab, che sono antenne sopravvite di tipo di baracchino, la Babinchini si sta neanche usare. Skylab 3. una cosa del genere, pare che la Skylab. Ho voluto piantare gli acciaieri io. Era un po' di vendita, ricordi. E poi, c'è quella di quel ragazzo che era cieco, che abitava lì vicino a lui, che è leggermente per il palo leggermente sotto, ancora è piazzata lì l'antenna, la mano, figurati. E poi un giro nella sala di avere il telefono per poter buttare la pagina di osso. Chi era? Romeo 33 mi fa. No, sto parlando di quella cosa, di via vicino a quelli di Abruzzi, la via che sale. Capito? C'era cieco che ondulava. C'era quello di via Vedante. Sì. Esatto. Ma qua prima e c'è dove abita la Paolo della gente, ancora la base della Firenze 2. E c'è lo stile soprattutto rampato. Che fine ha fatto Paolo? Lì dove si è passata lì. Spingiamo di qua, però poi mi sembra non abita più a Sassari, infatti, non so dove diavolo abita. Comunque lo spingiamo di attento alla piccola bar, lì, la sera verso le 3:30. Ma mi ha mandato anche a casa sua, non mi ricordo con chi, ci ha fatto vedere il tasto che usava, tutto quanto. Aveva una bella stazione. Io lo so, già c'è una bella stazione. Se la gente, se vuoi andare a cercare l'antenna, se è pieno. E ci mettiamo dove eravamo, noi siamo 10, 15, così che siamo. E altri ce ne sono almeno un centinaio. Se ti fai la passaggiata al centro storico, c'è anche un'altra cosa che non lo fa più usare, ricordo lo stato vecchio, di Marcetto. Dove abito? Perché Marcetto? Ma non la devo ricorso vicco, Perché modulava? Sì che modulava. Lavoro modulava, c'ha la cosa, la Super M c'ha, come antenna. Ce ne sono due vicino, ce ne sono due addirittura di Super M. Qui ci sono vari Grand Play, Boomerang, sopra i tetti. E ti fai un giro, grande in Europa. Ma non li usano più. O li usano per fare ascolto, ma non li usano più. E se va a Porto Torres, allora satellite tutto pieno di antenne. Sì, è proprio quello. Io con la Grand Play che avevo recuperato facendo un impianto antenna TV, c'era il palo in terra, la base, e la via in terra. Come si può prendere la via, le sono caricate in macchina, le ho utilizzate, e funzionano benissimo. E la Play che era quella, metà l'uno, metà l'altro mese, figurati tu. E qua c'era più di 20 anni, eppure è bella, tranquilla, ho dato una pulitina, e sta funzionando bene. Certo che funziona, ma la dialisi è l'unica cosa che può recuperare tranquillamente, non c'è problema. Ah, se lo stilo recuperato, tutti qua c'è la dialisi, compreso lo stilo. Fa tu beh, tanto, palampalampa. La base l'ho lasciata là, il palo l'ho lasciato lì, quando il palo c'era, un palo di 3 metri, bello grosso, un po' di 5-4, figurati. No, ma non si sono spezzati togliendo. No, c'era ancora il filetto nei radiali. Ti posso dire che c'è ancora il filetto. Magari ci hanno messo qualche prodotto che li ha tenuti in ordine. Se voglio posso dire, cioè, con l'antenna, con la lampeggia non sai, fatta con i radiali, con gli stili nella macchina, non faccio altro che togliere quegli stili lì, ci metto i radiali di quella lampeggia lunga, e l'hai fatta l'antenna per casa. Beh Ale, ti lascio un attimo che vado a dare una lavattina che non so ancora l'ha fatto, va. Riprendo dopo quando entrano gli altri, dai, ci sentiamo dopo. E ciao, già. Buona notte e ci sentiamo. cambia internet nel computer, come cazzo può essere? Un virus. Sì. È un giorno che non ti fai sentire, come mai? Sempre impegnato. Ma veramente mi stai dicendo, dici che c'è entrato un virus e non me lo fa andare avanti. Ma cosa ti fa vedere? Cosa c'è scritto? La scritta che ti appare cos'è? Praticamente apro internet e non mi compare la pagina di Google. Allora il browser di cosa, di internet, che cosa hai? Explorer? E poi ti fa navigare, cioè se metti qualcosa sulla barra dei comandi ti fa andare da qualche parte? No, non fa di nulla, non esce la barra. Non esce la barra, la devi ripristinare. No, la barra sotto di internet ce l'ha, ecco, tu vai, la schiacci, esce il coso, però non esce Google, hai capito? E non ti permette di navigare? No, non esce neanche la barretta sopra, niente. Rimane bianco, hai capito? E tu devi andare sul grigio e ripristinare tutto col tasto di destra. Schiaccia il tasto di destra e poi ti dice se vuoi mettere la barra di comandi, la barra di navigazione, e devi rispuntare tutto. Il grigio, c'ho un portatile io, a prescindere, tu vai col tasto di destra. Allora, cosa devo fare? Entro in internet, cioè provo a schiacciare entrare in internet. Cappa, dopodiché vai sulla parte alta, schiaccia il tasto di destra e ti fa aprire una tendina. Con la tendina ci devi cliccare tutto. Non metto neanche a faccio entrare. Sta girando il cerchietto, sta girando. Mi si è messo disconnesso. Continuata. Mi sa provare adesso. Non mi sta facendo entrare, Anto. E allora c'è un virus, aspetta un attimo.